Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione, come sempre, nella quale cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, come voi potete provare a cambiare la politica con la rete. Ebbene, questa settimana, in apertura di trasmissione, invece di darvi un po' di notizie come al solito, che questa settimana tra l'altro siamo anche abbastanza scarsi, vogliamo proporvi una riflessione che, se vogliamo, potrebbe inficiare il senso stesso di questa trasmissione. Ossia, i social network, i social media servono davvero alla comunicazione politica? Hanno davvero un impatto in questo momento? O, molto semplicemente, stiamo qua a raccontarcela? Saluto Dino Amenduni. Dino, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Che è già stato nostro ospite, lavora per Proforma, che è un'agenzia di comunicazione, si occupa di nuovi media e di comunicazione politica, ha curato tra le altre cose Proforma la campagna elettorale per le primarie di Nichi Vendola e ha curato tra l'altro altre campagne elettorali dello stesso Vendola. Allora, Dino, su Valigia Blu, che è un sito, poi vi metteremo il link al post di Dino Amenduni, hai proposto una riflessione sulle primarie. Insomma, alla fine ha vinto quello che i social media li ha utilizzati di meno, i social network li ha utilizzati di meno e complessivamente ha fatto meno comunicazione di tutti. Questa è una lezione, insomma, questi social network ce la stiamo raccontando, alla fine non servono a niente. No, non è esattamente così. In realtà c'è stato, secondo me, nel racconto collettivo una divaricazione un po' troppo forte tra l'effettivo impatto dei social media sulla campagna delle primarie e la influenza di altri fattori. Faccio un esempio molto, molto semplice. Sia le primarie del 2009, quelle di per la segreteria del PD, Bersani, Franceschini, Marino, sia queste primarie la stragrande maggioranza dei votanti, quindi la maggioranza assoluta, aveva un'età superiore ai 55-60 anni. Quel tipo di pubblico evidentemente non è così tanto influenzato o così tanto attivo sui social media come magari possono essere le fasce più giovani della popolazione, e questo vuol dire che c'è stata una sorta di distacco tra l'opinione pubblica online e quella offline. Qual è la conseguenza di questo? La conseguenza di questo è che noi, ovviamente, cioè noi addetti ai lavori, giornalisti, opinione pubblica, concentrati sulle dinamiche di comunicazione online, ci siamo dimenticati delle dinamiche invece quelle classiche, quelle di apparato, quelle di voto di prossimità, e questo ovviamente ha causato quello che io ho provato a spiegare nel post, cioè il fatto che nonostante Bersani fosse il candidato che ha avuto il minor tasso di crescita, l'incremento delle sue pagine su Facebook e su Twitter, questo comunque non gli ha impedito di vincere anche piuttosto largamente le elezioni. Questo non vuol dire rischiamo, che Dino, perdonami, rischiamo di vivere in una sorta di bolla da questo lato, no? Attenzione, perché io penso che ogni campagna elettorale vada analizzata nel suo contesto. Ci sono stati due episodi l'anno scorso che invece hanno detto molto di diverso rispetto a queste primarie sull'impatto positivo potenziale dei social media nelle campagne. Le due campagne furono quella dell'amministrativa a Milano e quella del referendum del 2011. Lì i social media sono stati effettivamente determinanti. A Milano perché tutta l'ondata satirica, il famoso hashtag è colpa di Pisapia, ha prodotto un effetto di delegittimazione del candidato Moratti e invece di sostegno al candidato Pisapia, effetto nato online e che poi si è visto anche sui mezzi tradizionali e nella percezione comune. Al referendum addirittura su internet si in qualche modo ha girato il sistema dei mezzi tradizionali che per tante ragioni non dava informazioni corrette sul referendum. Lì il contesto permetteva un utilizzo dei social media effettivamente funzionale, perché ovviamente lì il pubblico elettorale non era solamente i più anziani o comunque in maggioranza di anziani come è capitato per le primarie, ma è un pubblico più eterogeneo. Infatti adesso la sfida, la vera domanda che dobbiamo porci secondo me è se i social media, il comportamento degli utenti, dei partiti, dei candidati sui social media alle politiche saranno più simili poi ai comportamenti di voto rispetto alle primarie. Stando ai dati demografici, secondo me c'è la possibilità che i social media impattino paradossalmente più alle politiche che alle primarie. Vedremo che cosa succederà da questo lato. Comunque, Dino, mi sembra dibattito aperto. Se volete potete commentare, potete dirci come la pensate anche sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo che ci potete contattare anche su Twitter, vota Antonio R24. Potete contattare anche me se volete, Simone Spetia. Dino Amenduni, vi basta fare una ricerca su internet e trovate tutti i dettagli che lo riguardano. Comunque qualche link lo trovate anche sul nostro sito. Dino, grazie, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Dibattito aperto dunque, e noi ci ritroviamo tra poco, come sempre, per tornare, se vogliamo, alla politica, quella classica, col nostro Stefano Folli. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, come sempre, in questa seconda parte della trasmissione. È il momento di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Finalmente si parte. Mi riferisco alle primarie e devo dire che sono molto contento perché già decine di migliaia di firme sono state raccolte e centinaia di circoli sono stati avviati. È la forza di un grande movimento popolare, il Popolo della Libertà, che sta rispondendo benissimo. E poi sono anche contento perché a queste primarie ho tanto creduto, è stata una scelta coraggiosa. Ho insistito e credo che sia davvero la scelta che può fare rinascere il centrodestra italiano. Non c'è da rottamare, non c'è recuperare o acquistare uno slogan, c'è da darsi una missione, e la missione è quella di rifondare un centrodestra italiano moderno e vincente. Avete visto, no? Pochi credevano alle primarie, molti l'hanno contrastate e adesso tanti vogliono candidarsi. Alla fine si candideranno quelli giusti, quelli che hanno una vera presenza territoriale, e con loro sarà una bella gara di idee che farà rinascere la più grande area politica del nostro paese. Ed eccolo, non potevamo che pescare proprio dai social network, dalla rete, il video con il quale Angelino Alfano gloriosamente celebrava le primarie. Stefano, buongiorno, che buongiorno, tenerezza. Buongiorno, poveretto, è veramente una cosa tremenda. Evidentemente, diciamo che dopo che Berlusconi gli ha infranto il sogno, forse avrebbe fatto bene a dimettersi, francamente, piuttosto che gestire l'opposto esatto di quello che aveva promesso con queste parole così alate. Dunque, Berlusconi è ritornato, insomma, adesso non so quanti rimetterci davanti, e tra l'altro accompagnando il tutto con il traballio del governo. Sì, è una storia complicata assai, intanto perché ha a che fare più che con la politica, con diciamo una condizione psicologica di un uomo che non vuole lasciare la scena perché è profondamente turbato dagli eventi che lo riguardano, le questioni giudiziarie, gli interessi economici, insomma non c'è più politica in tutto questo, o ce n'è in un modo un po', diciamo, filtrato. Poi perché sta distruggendo il centrodestra, questa ridiscesa, ridiscesa in campo distrugge il centrodestra, lo colloca su posizioni tendenzialmente estremiste, antieuropee, e indubbiamente, hai detto bene, è un colpo tremendo al governo. D'altra parte stiamo andando verso la fine della legislatura, vorrà dire che la legislatura sarà anticipata di un mese o due. Tu che cosa immagini? Mi sembra che a febbraio non si riesca ad andare a votare, perché c'era qualcuno che suggeriva anche queste ipotesi. Molto difficile, vero? I tempi sono molto stretti, e poi soprattutto c'è da approvare la legge di stabilità. Questa è la cosa. Ci manca solo che non approviamo la legge di stabilità. Sarebbe terribile. Tieni conto che in questo momento abbiamo gli occhi dell'Europa addosso. Tutti stanno a vedere gli operatori finanziari, i famosi mercati, le cancellerie. E d'altra parte hai visto già che la borsa ha cominciato a prendere dei colpi in queste ultime 48 ore, lo spread è un po' risalito, insomma dobbiamo stare molto attenti, la legge di stabilità è essenziale, dopodiché sotto la regia di Napolitano, perché in questo momento Napolitano ha un ruolo centrale, cruciale, si cercherà di andare al voto senza ulteriori lacerazioni. Febbraio, appunto, è un po' troppo presto, probabilmente sarà agli inizi di marzo. Probabilmente sarà agli inizi di marzo. Tu immagini che alla fine accorperanno anche le regionali? Io suppongo di sì a questo punto, no? Sì, è possibile, però la cosa non è che il tema mi prenda troppo, ecco, mi appassioni troppo. A questo punto cerchiamo di salvare il salvabile sul piano, diciamo, dell'immagine nostri in Europa e della sostenibilità dei nostri conti. Ci scrive un ascoltatore, Santo, e ritorna su un'altra delle notizie della settimana, indubbiamente, anzi quella che pensavamo dovesse essere la notizia della settimana fino alla, dal punto di vista politico, prima della ridiscesa in campo di Berlusconi, che è la decisione della Corte Costituzionale in merito alla trattativa Stato-mafia e alla necessità di distruggere le intercettazioni che coinvolgono direttamente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Insomma, la domanda è sempre la stessa, ma insomma, alla fine, ci scrive Santo, non è che se c'è in ballo un qualche tipo di reato penale non era giusto che queste intercettazioni fossero pubbliche? Il problema è che non può essere una procura a decidere che cosa è rilevante o no nelle intercettazioni che riguardano il capo dello Stato. Questo è un principio costituzionale che è stato ribadito dalla Corte. E in questa vicenda, oltre al resto, c'è in ballo, diciamo, la saldezza e l'equilibrio delle nostre istituzioni. Il Quirinale non può nemmeno essere sfiorato dal rischio di essere sottoposto a delle pressioni esterne, e proprio in queste settimane, o anzi in questi giorni, stiamo vedendo quanto è necessario avere un Quirinale che riesce a svolgere la sua funzione senza subire queste pressioni. Perché tu immaginati se noi oggi ci trovassimo nella crisi politica che stiamo vivendo con un Quirinale che fosse azzoppato da cosa? Dalle iniziative di una singola procura. Tu capisci che tutto il nostro equilibrio, tutto il nostro assetto costituzionale andrebbe a farsi benedire. Questo credo che sia la questione di fondo. Questo il nodo. Io ritornerei adesso alle questioni politiche, perché è molto probabile per certi aspetti, Stefano, che alla fine il ritorno in campo di Berlusconi possa portare qualche consenso in più forse al PDL o alla formazione che emergerà, insomma, da questo PDL. Questo potrebbe prospettare un Parlamento ancora più frammentato, perché l'idea di Berlusconi, mi sembra di aver capito, far sì che, dato che la legge elettorale per il Senato è diversa da quella della Camera, insomma, poter bloccare un eventuale governo di centrosinistra sul Senato. Sì, non è tanto i consensi in più per Berlusconi quanto la possibilità che si ricrei, come io penso che sia molto probabile, l'alleanza fra il PDL e la Lega. E questo naturalmente nel Nord, soprattutto in Lombardia, potrebbe determinare una situazione per cui al Senato, con il sistema elettorale che è diverso da quello della Camera, e naturalmente ci terremo, no, la famosa legge elettorale, il famoso Porcellum, perché ormai non c'è più modo di cambiarlo, beh, tutto questo potrebbe determinare la mancanza di una maggioranza al Senato che sia omogenea con quella della Camera. Questo è effettivamente un rischio, è uno dei tanti rischi che, insomma, non stiamo guardando al futuro con assoluta serenità. La prossima legislatura nasce sotto, non dico una cattiva stella, ma nasce con qualche incognita. Quindi nei prossimi mesi, e anche per questo è importante che si arrivi alle elezioni senza ulteriori disastri, nei prossimi mesi dovremo giocarci la carta della stabilità. Questo è un paese che ha bisogno di stabilità, l'ha avuto in questo anno grazie all'esperienza in quella forma irripetibile del governo tecnico. Dovremo trovare i modi politici per garantirci ugualmente stabilità in avvio di legislatura, considerando anche il fatto che dal 15 maggio non ci sarà più Napolitano al Quirinale, ma ci sarà un altro presidente che deve essere individuato, deve essere votato in Parlamento. E naturalmente, e probabilmente dal nuovo Parlamento. Quindi mi sembra di capire, Stefano, secondo te questo Maroni che dice se Berlusconi torna in campo alleanza con la Lega impossibile, sono tutti giochetti, alla fine si andrà a parlare da quelle parti comunque. Sono giochetti, perché quello che interessa molto alla Lega è che il PDL si distacchi da Monti, cioè che interrompa il sostegno a Monti. E di qui ai prossimi due mesi probabilmente le cose andranno in modo tale, o al prossimo mese, in modo tale che quantomeno le condizioni per ricreare questa alleanza con la Lega ci saranno. C'è un'ultima domanda che ti voglio girare da un ascoltatore, anche in questo caso, vi ricordo potete scrivere a il.etradio24.it, si chiama Francesco e ci riporta ad una questione di qualche giorno fa e che riguarda la questione del voto per la Palestina alle Nazioni Unite. Insomma, ne abbiamo già parlato, ne hai parlato anche nel tuo punto settimanale, e ci fa questa domanda: ma non è che una decisione di questo genere da parte dell'Italia di votare a favore della Palestina come associato, come stato osservatore dell'ONU, dovesse passare dal Parlamento? Non sarebbe stato più corretto far passare una decisione di questo genere dal Parlamento? No, non credo. Questo francamente non vedo la ragione di passare al Parlamento. Non è mica un trattato che si deve ratificare, è un voto, è un'iniziativa tipicamente di governo. No, il problema è unicamente politico. Si può e si deve discutere se sia stata una scelta idonea a preservare i nostri interessi in Medio Oriente. Credo che sia stato questo il motivo che ha spinto il governo a scegliere la strada del sì, ovvero sia se non era più opportuno mantenere un contatto con gli Stati Uniti, ma anche con alcuni paesi europei rilevanti. Ricordo che la Germania, che è il nostro, diciamo, punto di riferimento su tanti altri campi, per esempio nella politica economica e finanziaria, beh, la Germania si è astenuta, e quindi questo è il punto. Se ci fossimo regolati come la Germania, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Invece abbiamo voluto tornare un po' a quello che era il passato. In passato l'Italia era un paese molto filo arabo e filo palestinese, siamo un po' tornati a quella tradizione. E io, come ho detto anche alla radio, soltanto il tempo dirà se è stata una buona scelta oppure no. Se questo favorirà il dialogo tra israeliani e palestinesi, sarà stata una buona scelta, altrimenti no, e al momento dubito che questo possa spingere verso il dialogo. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Vi ricordo ancora che potete scrivere, se volete, il punto è radio24.it. Ci ritroviamo tra poco, parliamo proprio di spread e poi delle primarie del Movimento 5 Stelle. A tra poco. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci in questa terza parte di Voto Antonio. Come sempre apriamo parlando di numeri che troviamo su Twitter nella fattispecie. Come sapete, ogni volta cerchiamo una parola, magari un nome di un politico, analizziamo singoli fatti. Lo facciamo come sempre con Riccardo Puglisi, anche grazie alla società R2M Solution. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. E questa settimana non potevamo che occuparci di spread, Riccardo. Esattamente, quindi con questo software che si chiama Opinion Politica analizziamo quello che capita su Twitter e poi cerchiamo di fare degli studi statistici e vediamo innanzitutto una cosa, che tutta la copertura del tema dello spread inizia lunedì 3 dicembre e saltiamo da una meno di 100 menzioni dello spread nei giorni precedenti a 1400 il lunedì, poi c'è un po' un calo e si arriva praticamente a 2000 il giovedì, quando c'è stata la famosa dichiarazione di Berlusconi, l'episodio con Passer, quindi la potenziale crisi di governo. Quindi direi che c'è una cosa costante, per esempio questo, quando si parla di grandezze finanziarie, ciò che è notiziabile, ciò che fa parlare la gente, ciò che fa dichiarare cose, quindi ciò che fa avere più tweet, è la variazione, cioè ovviamente quando cambia qualcosa. Ovviamente, nella fattispecie per quanto riguarda lo spread, ormai entrato nel nostro linguaggio comune, lo ricordiamo, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani a 10 anni e i titoli di Stato tedeschi a 10 anni. Però quello che vogliamo verificare, al di là della presenza su Twitter della parola spread, a cosa viene associata questa parola anche a seconda degli eventi. Io prenderei proprio lunedì e giovedì, due momenti molto diversi appunto anche dal punto di vista dell'andamento. Direi di sì, innanzitutto uno può andare a vedere, c'è questo fenomeno per cui quando succede qualcosa abbiamo più dichiarazioni e retweet e non dialoghi, questa è una cosa costante che continuo a vedere nei dati. Nella giornata abbastanza lieta dal punto di vista dello spread di lunedì, i tweet più ritwittati sono spiritosi, per esempio il più ritwittato è quello di uno di Luca Bizzarri, che dice: oggi lo spread è sceso sotto i 300 punti e io fesso manco me ne sono accorto. Quindi c'è questa idea per cui c'è la notizia buona, ma dall'altra parte c'è la contrapposizione con una realtà dell'economia reale che invece non è ancora buona. Quindi c'è questa tensione, per cui in realtà dal punto di vista da macroeconomista io direi che è un'ottima cosa, però la rete, il popolo della rete, ma comunque i cittadini vivono la cosa con una certa leggerezza, perché appunto la notizia viene giudicata buona, ma dall'altra parte c'è questa specie di umorismo un po' amaro, ecco. Sì. Quindi questa è una caratteristica. Naturalmente Adesso hai un cartellino giallo per aver detto popolo della rete, la prossima volta cartellino rosso e sparirai, Riccardo. È male. Andiamo su giovedì, il popolo della rete non esiste. Andiamo su giovedì, Riccardo. Non esiste, e invece il giovedì esiste il popolo della politica, se invece posso recuperare dicendo questo. Quindi ci sono gli eventi relativi all'intervista di Passera della mattina, e poi l'atteggiamento di Berlusconi del PDL riguardo al governo Monti. Le dichiarazioni che la fanno da padrone sono quelle dei politici. Infatti le dichiarazioni più ritwittate sono una di Deborah Ferracchiane dal lato del PD e una della Giorgia Meloni dal lato del PDL, all'incirca un'ottantina ritwittate a testa. La Ferracchiane dice: il PDL si è offeso perché un ministro non ha gradito il ritorno di B, cioè Berlusconi, le borse crollano, lo spread vola, gli italiani ringraziano. Qui tanto anche un bel tweet dove mette insieme tante cose, chiaramente collegando l'aspetto di finanza con l'aspetto di politica. Stessa cosa la Meloni, ma cercando di sviare, oserei dire, perché dice: invece di parlare di spread affrontiamo i problemi della gente, penso ai non garantiti, alla questione demografica, energetica e ambientale. Naturalmente, e il collegamento della parola spread all'interno dei tweet è con, essenzialmente, oltre che con punti, perché si misura in punti, è con le parole governo, con la parola Berlusconi e con l'hashtag Berlusconi. Esattamente, mentre invece nei giorni precedenti, specialmente il lunedì e il martedì, la parola che faceva da padrone era sicuramente Monti appariva come parola, appariva anche Grilli, grazie, eccetera, eccetera. C'è, diciamo, sicuramente un tono migliore, ma la parola Berlusconi compare due volte, compare sia per se stessa che con l'hashtag, e Silvio, compaiono molti numeri, 317, 330, 320, 311, una specie di escalation. Dunque, Riccardo, possiamo dire che il popolo della rete, che non esiste, collega direttamente Berlusconi con lo spread. Grazie Riccardo Puglisi anche per questa settimana. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata a voi. E adesso noi ci occupiamo di parlamentarie, ossia le primarie del Movimento 5 Stelle. A me mi è arrivato la chiamata dal call center: non ti ricordi che nel 2008 ti eri candidato? Lo sai che potresti pure presentarti per Parlamento? Io gli ho detto di sì, ma sinceramente entro io, entra quell'altro, è indifferente. L'importante è uno solo: tra dentro, dagli fuoco. Sono candidato alle parlamentari 5 Stelle perché ci credo, perché ci ho sempre creduto. Ciao a tutti, mi chiamo Federica Dieni, ho 26 anni e sono di Reggio Calabria. Sono laureata in giurisprudenza. Ecco, quello che vedete qui alle mie spalle è uno degli ennesimi disastri provocati dall'incuria e dalla mala politica. Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ciao, sono Bellamo Giorgia, sono candidata per il Movimento 5 Stelle perché voglio dare il mio contributo, perché la trovo una missione, e per senso civico credo che sia un dovere. Ciao, sono Gianni Bonatti e sono candidato alle primarie per il Movimento 5 Stelle. Io non ho nessuna esperienza politica, non ho mai fatto politica ed è pochissimo tempo che mi sono avvicinato alla politica grazie appunto al movimento. Cioè proprio sterminali. Ma chi stermini? Quelli già sono morti. Vabbè, gli facciamo l'estrema unzione, già gliel'abbiamo fatta. Di conseguenza dobbiamo solamente scavargli la fossa. Ed eccoli alcuni, naturalmente non rappresentativi quanto vogliamo, dei candidati alle parlamentarie, così chiamate dallo stesso Beppe Grillo, ossia le primarie avvenute online del Movimento 5 Stelle per le candidature al Parlamento nazionale. Video in parte tratti da un sito creato per l'occasione, candidati5stelle.tumblr.com, da Fabio Chiusi, che saluto, buongiorno Fabio. Ciao, buongiorno a te. Blogger, giornalista, è già stato ospite da queste parti, come sapete. Saluto lui e saluto anche Alessandro Lanni, che è caporedattore della rivista Reset, insegna giornalismo politico all'Università La Sapienza di Roma, autore tra l'altro di Avanti Popoli, Piazze, TV, Web, Dove va l'Italia senza partiti, edito da Marsilio, dove si parla anche di costoro, insomma di Beppe Grillo, dei cosiddetti grillini o attivisti del Movimento 5 Stelle. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora Fabio, tu che hai raccolto questi audio, questi video in realtà, che impressione ti sei fatto a livello generale? Ma è che è un mondo molto vasto sicuramente, io ne ho potuti visionare perdendoci quasi tre notti, penso 150 su 1400 che avrebbero dovuto essere in totale, se non ho capito male. E naturalmente ci sono dei personaggi piuttosto pittoreschi, alcuni di quelli tra l'altro che avete mandato in onda li ho riconosciuti benissimo, e altri naturalmente invece sono persone che hanno, diciamo, si presentano anche in una maniera più seria, più competente, anche dal punto di vista della realizzazione del video. Alcuni hanno anche proprio cercato di dare una vera e propria regia, alcuni hanno avuto un concept, no, come quello che ha rifatto il discorso della discesa in campo di Berlusconi, che io trovo eccezionale, forse il mio preferito, devo dire la verità. Sì, perché è il dire le stesse cose che ha detto Berlusconi, adattandole però evidentemente allo spirito del Movimento 5 Stelle. Un giudizio complessivo sull'operazione, Fabio? Ma è un'operazione che secondo me è un'occasione un po' persa, nel senso che è vero, ha ragione Grillo quando dice che il Movimento 5 Stelle ha fatto questa cosa che potenzialmente, o almeno insomma concettualmente, è innovativa, no? È rivoluzionaria, cioè far scegliere i propri candidati da comuni cittadini, cioè comunque diciamo dagli iscritti al portale di Grillo, e di farlo solamente online. E dall'altro lato però la trasparenza che è stata fornita rispetto a questa operazione, sia nella modalità di svolgimento, diciamo, sia nella comunicazione dei risultati, insomma, diciamo che se l'avesse fatto un partito tradizionale non l'avremmo raccolto molto, molto bene questa, diciamo, questa operazione. Teniamo conto che stiamo parlando di un movimento o partito, come lo si voglia chiamare, che comunque ha il 17, 16, 15, 18% dei consensi nel paese, insomma, quindi che sia rappresentato dai 95.000 voti, che poi potrebbero essere 30-40.000 votanti, insomma, sì, mi sembra un po' poco come iperdemocrazia, ecco. Mi sembra un po' ipodemocrazia, mi sembra, se mi è passato il tempo. Vedo Alessandro Lanni che sorride, immagino condivida. Sì, sono d'accordissimo con quello che stava dicendo Fabio Chiusi ora, perché se facciamo un piccolo rapporto tra il numero appunto dei votanti, dei voti alle parlamentari di Grillo, ovvero 95.000 circa, e quelli che possiamo stimare essere sui sondaggi di questi giorni i voti che riceverà la lista a 5 Stelle tra qualche mese, ovvero più o meno dovrebbero essere intorno ai 5-6 milioni, siamo su un rapporto, diciamo, tra coloro che hanno scelto i candidati e coloro che li eleggeranno di 1 a 60, 1 a 50, 1 a 60, diciamo un sessantesimo, appunto, che per chi si batte per la partecipazione della cittadinanza alla politica e alle scelte della politica, diciamo, è un po' poco. Se pensiamo che alle primarie del centrosinistra la scorsa domenica sono andati 2 milioni e mezzo, circa un quarto, un quinto di coloro, se più o meno stiamo ai voti che presero nel 2008, ovvero 12 milioni, sono circa un quarto o un quinto degli elettori del centrosinistra, è un altro livello di partecipazione. Tra l'altro con modalità di accesso, dico, per gli elettori del centrosinistra decisamente più complicate, tanto se ne è discusso nel corso di queste settimane. Ci fermiamo un attimo per la viabilità, riprendiamo subito dopo. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. E siamo qua dunque a parlare delle parlamentarie, ossia le primarie del Movimento 5 Stelle, come sappiamo avvenute online, con tutti i video che probabilmente avrete visto, avrete sentito, insomma qualcuno ne ha mandato in onda anche il nostro Giuseppe Cruciani, come vi sarà capitato di ascoltare durante la zanzara, i più pittoreschi almeno. Alessandro Lanni, e però è comunque un bel esperimento, insomma, un segnale interessante, un segnale comunque di cui forse anche i partiti tradizionali dovranno tener conto in qualche misura, lo sfruttamento della rete in questo senso. Tanto se ne è discusso anche per quanto riguarda le regole delle primarie. C'è una cosa che non ho capito nemmeno io, per esempio. Ma perché i votanti all'estero potevano votare online alle primarie e chi stava in Italia non poteva votare online? Sicuramente queste sono le insicurezze, direi, di un partito in fondo che ha radici antiche e anche forse qualche dirigente ancora un po' radicato nel Novecento che ancora non hanno fatto fino in fondo i conti con le nuove tecnologie, con la rete, con gli usi che ormai per tutti noi sono abbastanza normali. Ecco, ricordo appunto l'espressione fascisti del web usata dal segretario del Partito Democratico qualche mese fa per riferirsi a Beppe Grillo. Beh, ecco, lì al di là dell'aspetto del fascismo stava a dire anche di una diffidenza rispetto alla rete che ancora c'è in quella generazione, forse. Fabio Chiusi, ripeto, giro anche a te la domanda, insomma, a me è sembrato comunque un esperimento interessante, con tutti i limiti, naturalmente, anche quest'idea di far votare solamente dalle 10 alle 17, chissà perché in un voto online si può votare solamente dalle 10 alle 17 e quindi in orario da ufficio che non è molto chiaro. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è tutti i dubbi che questo si porta dietro in merito alla raccolta dei dati per quanto riguarda le persone che hanno votato. Guarda, io credo come te che sia un ottimo esperimento, nel senso che sarebbe ora finalmente di passare dalla teoria alla prassi, no? Visto che di democrazia digitale abbiamo letto e sentito parlare per tanti anni, adesso finalmente si passa un po' l'esperimento sul campo, e l'esperimento sul campo, come spesso accade, dimostra che la teoria probabilmente è molto bella e poi la pratica è un'altra cosa, no? Ci sono un sacco di problemi anche di ordine pratico, per esempio gli attacchi hacker che il sito di Beppe Grillo, che Beppe Grillo stesso ha detto di aver subito a intermittenza poi per tutta la durata dei voti, no? Quindi la messa in sicurezza del voto online è un tema dibattuto anche tra gli esperti, io ne ho scritto qualche mese fa sull'Espresso, anche per quanto riguarda il voto alle politiche, quindi diciamo che è un rapporto affascinante e complesso, diciamo, tra partecipazione e internet e comunque strumenti di partecipazione. Ora la vera sfida sarà quella sul programma, perché oggi Grillo, leggevo appunto che tramite i suoi canali, sui social network, annunciava di incominciare a iscriversi, insomma, a questa piattaforma, questo cosiddetto portale per stendere in maniera collaborativa il programma, e qui probabilmente sarà adottata una piattaforma del tipo Liquid Feedback, quella adottata dai pirati, e vedremo come andrà a finire, perché diciamo, se veramente, come dicono loro, come dicono gli aderenti al movimento, quello che conta più della persona sono le idee, il momento del programma sono le vere primarie per questo movimento o partito che dir si voglia, per cui staremo a vedere, bisognerà tenerlo d'occhio anche dal punto di vista proprio del fenomeno in sé, che è molto, molto interessante da studiare. Ecco qua, Alessandro Lanni, Fabio mi sembra che dicesse una cosa molto interessante, che le vere primarie per questo movimento sono quelle che riguardano il programma, perché a tutti gli effetti abbiamo visto, a parte per i numeri, no, che sono testimoniati dall'andamento di queste parlamentari, ossia 95.000 persone, abbiamo visto che per quanto riguarda almeno il Movimento 5 Stelle il cosiddetto blocco sociale non esiste, l'abbiamo visto in questi tanti video, tantissime professioni diverse, modi di essere radicalmente diversi, territorialità naturalmente diverse, quindi c'è qualcosa da riflettere anche, su cui riflettere anche da questo lato, evidentemente. Certamente, io direi appunto sono un esperimento positivo, non solo un esperimento, perché ci hanno finalmente fatto vedere a tutti chi è questo popolo, tra virgolette, di Grillo, perché fino ad ora in molti ce lo siamo chiesto, e in fondo poi, se i numeri sono quelli detti dai sondaggi, sono un popolo consistente, come dire, che ben rappresenta l'Italia. Quindi un primo risultato buono è, e anche per la democrazia direi un primo risultato buono, è far vedere in faccia chi sono questi che saranno poi decine, forse un centinaio di deputati in Parlamento tra qualche mese. Quindi questo mi sembra un effetto importante. Sì, giustamente un altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è il fatto che c'è molto richiamo all'esperienza fatta sul territorio, come biglietto da visita per entrare in Parlamento. Ecco, qui io la vedo un po' più critica la cosa, perché una cosa, come sappiamo bene, è amministrare una città, un paese, a farsi esperienza su battaglie sul campo, difesa dell'ambiente, oppure delle coste, come per esempio certificavano i curriculum dei candidati eletti in Sicilia. Altra cosa è avere una conoscenza approfondita della macchina istituzionale del Parlamento. Ecco, lì ho paura che vengano fuori qualche nodo per gli attivisti a 5 Stelle eletti. Grazie ad Alessandro Lanni, capo redattore della rivista Reset, insegna tra l'altro giornalismo politico all'Università La Sapienza di Roma e autore di Avanti Popoli, piazze TV web dove va l'Italia senza partiti, edito da Marsilio. Grazie anche a Fabio Chiusi, giornalista, blogger, il suo blog è Il Nichilista, comunque se cercate Fabio Chiusi su internet, su Google, insomma, trovate tutto quello che vi serve su di lui. Metteremo anche dei link nella nostra pagina internet. Su questo tema delle parlamentarie però non ci vogliamo fermare, perché è un tema che riteniamo sia interessante discutere. Se volete potete farlo anche sulla nostra pagina Facebook, che è Vota Antonio R24. Naturalmente prima ci va l'indirizzo di Facebook. Potete seguirci su Twitter, Vota Antonio R24, potete farlo anche con me se volete. Simone Spetia, si scrive con la T anche se si legge Spezia. Un ringraziamento a Valerio Rocchetti in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buona giornata.